America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. C'è un luogo comune di cui vorrei parlarvi oggi, un luogo comune che ha a che fare con l'America, cioè che l'America è un po' un far west, è un paese senza regole, un paese dove domina il mercato libero, dove ci sono soprusi continui, il consumatore spesso non è tutelato, il grande business fa un po' quello che vuole. Ecco, io spesso, scrivendo anche sul nostro giornale, mi trovo a dire esattamente il contrario. E abbiamo un esempio di una notizia di ieri che lo conferma. Sentiamo. Well, today BP and the US government announced a tentative settlement to resolve the years-long legal battle stemming from the 2010 Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico. In a record settlement, BP will pay $18.7 billion over 18 years to the five Gulf states involved. Ecco, avete sentito, è la notizia di un accordo che è stato raggiunto proprio ieri fra la British Petroleum e le autorità statunitensi, il Dipartimento per la Giustizia degli Stati Uniti, per un risarcimento record per un incidente gravissimo, un incidente che forse molti di voi ricorderanno, un incidente che capitò nel 2010 nel Golfo del Messico, quando ci fu una fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon. Ebbene, qual è l'accordo che è stato raggiunto ieri fra il Dipartimento per la Giustizia e la British Petroleum? L'accordo è per una multa di 18,7 miliardi di dollari, 18,7 miliardi di dollari che dovranno essere pagati in 18 anni. Complessivamente però il pacchetto avrà un valore di 20 miliardi di dollari se includiamo anche altre multe per i danni che sono stati provocati. Dunque, questo per dirvi che cosa? Che l'America è un paese dove c'è molta libertà, ma dove chi va a violare le regole, beh, viene punito molto duramente. Ricorderete per esempio quando ci fu l'annuncio di una multa di 5,6 miliardi di dollari per un gruppo di banche, per quattro banche, la JP Morgan Chase e Citigroup, le banche americane, e Barclays Bank e Royal Bank of Scotland, che avevano, come dire, violato delle regole e truffato, forse un termine un po' forte, ma comunque avevano creato delle disfunzioni sul mercato dei cambi. In quel caso, come vi ho detto, la multa è stata di 5,6 miliardi di dollari. Mi domando se nella campagna elettorale in corso tutti i candidati, soprattutto quelli repubblicani, sono d'accordo con una multa di queste proporzioni, sono d'accordo con un intervento del Dipartimento per la Giustizia. Io credo che più o meno tutti lo sarebbero, sicuramente lo sarebbe Jeb Bush, ma probabilmente non lo sarebbero quei candidati come Ted Cruz, per esempio, del Texas, oppure come l'ultimo candidato molto colorito, variopinto, che si è aggiunto al gruppo dei repubblicani in corsa per la Casa Bianca del 2016, e cioè Donald Trump. Donald Trump, che è nelle cronache, diciamo, perché non è stato molto politically correct, e anche lui, in qualche modo, avendo agito al di fuori delle regole accettate, in questo caso regole che vogliono il rispetto e la tutela delle minoranze, è stato punito, è stato anche lui multato, in questo caso dalla NBC Universal, quindi da una rete televisiva. Sentiamo cosa è successo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. Ecco, qui avete sentito Donald Trump quando annuncia la sua candidatura. Non credo che Donald Trump abbia bisogno di molte presentazioni, è un immobiliarista, ma ormai è diventato un grande marchio. Il marchio Trump viene venduto ad altri immobiliaristi che vogliono costruire delle torri, degli alberghi, delle residenze magari al mare, e lo pagano semplicemente per avere il suo marchio. E ormai Donald Trump fa i suoi soldi soprattutto in quel modo, ma li fa anche in televisione, perché ha avuto per un certo periodo di tempo un programma di un certo successo in cui licenziava le persone, faceva una serie di interviste a dei giovani, costoro dovevano presentargli l'idea di un progetto, di un business che secondo loro poteva funzionare, e lui alla fine dichiarava solo un vincente e gli altri venivano fired, you're fired, sei licenziato. Ecco, è un uomo, Donald Trump, molto vivace, diciamo, usiamo questo termine, ma quando ha annunciato la sua candidatura, quella che vi ho fatto sentire poco sopra, ha detto: quando il Messico consente che i suoi cittadini vengano al di là dei nostri confini, non consente che arrivino, diciamo, i messicani migliori, manda persone con problemi, e questi messicani portano i loro problemi con sé arrivando qui, portano droga e portano traffico di droga, portano criminalità organizzata, sono degli stupratori e alcuni forse sono anche delle brave persone, però dobbiamo creare una barriera per impedire che questi messicani arrivino negli Stati Uniti. Come dire, un motivo di fondo questo che ci riguarda e che riguarda anche il nostro dibattito, vero o no? Pensiamo ai leghisti, per esempio, che vogliono chiudere le barriere. Ecco, ci sono naturalmente delle differenze, ci sono forse degli eccessi, ci sono delle debolezze da parte del nostro governo, su alcuni punti condivido, ma quando si arriva a insultare persone che cercano di lavorare, di comportarsi per bene, e mi riferisco a quelle naturalmente che sono la stragrande maggioranza, si rischia di cadere nel razzismo come cade nel razzismo Donald Trump. E allora che cosa è successo a Donald Trump? C'è stata la reazione della NBC Universal, un canale che oggi è controllato dalla Comcast, che ha annunciato di aver tagliato i rapporti, qualunque rapporto, con Donald Trump, e in particolare per due programmi molto importanti, e cioè per Miss USA e per Miss Universo, che venivano gestiti direttamente da Donald Trump. E la NBC ha detto: da noi, alla NBC, il rispetto e la dignità verso ogni persona sono i pilastri dei nostri valori. A causa delle recenti e sprezzanti dichiarazioni di Donald Trump nei confronti degli immigrati, NBC Universal si trova costretta ad interrompere i rapporti d'affari con lui. C'è stata anche Macy's, che ha deciso di boicottare la linea di abbigliamento del marchio Donald Trump, non soltanto abiti ma anche camicie, cravatte, gemelli. Siamo a favore della diversità, ha detto Macy's, che è la più grande catena di grandi magazzini negli Stati Uniti. Insomma, secondo me arriva una lezione importante da parte degli Stati Uniti, e cioè che le regole vanno rispettate, sia le regole degli affari, del business, che quelle etiche, quelle morali. Qui non si sgarra, potrà esserci una grande libertà di espressione, c'è il primo emendamento della Costituzione che consente appunto la libertà di espressione, ma c'è un limite, perché la libertà si ferma laddove non viene tutelato il diritto degli altri, e questa è una lezione piuttosto importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di punizioni, abbiamo parlato di persone che hanno sgarrato, hanno violato le regole. In America però poi si paga una multa, ma poi ci si può rimettere in carreggiata, dunque c'è una possibilità di redenzione. E dunque affidiamoci a Bob Marley con un classico meraviglioso, Redemption Song, la canzone della redenzione. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento lunedì. Goodbye, get going e buon 4 di luglio. Ricordiamolo, questo è il weekend del 4th of July, della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.